A tempo di sport con Claudio Arrigoni. Milan, addio a Ibra e Thiago, è questa la notizia di oggi. Si diceva di un Ibrahimovic ancora indeciso, ma Raiola è passato prima dalla Svezia, ora atterrerà a Parigi poco dopo la fine della nostra trasmissione alle 15.30 dalla Svezia. In Svezia c'era anche Leonardo, ormai sembra proprio chiuso l'affare, probabilmente per entrambi. Claudio Arrigoni per Radio 24, Laura Vanossi in redazione, Matteo Comes in regia. È questa la notizia più importante della giornata. Adesso ne parleremo subito, magari con uno che il Milan lo conosce bene e dal di dentro. Poi ci saranno tante voci, quelle della Juventus, da Inter, da Napoli, da Roma. Come sempre in questi giorni vi racconteremo anche una storia bella di sport, che è quella di Beatrice Bebevio, schermitrice quindicenne amputata ai quattro arti, per la quale si è mossa anche l'Europa perché vada alla Paralimpiade di Londra. 800 24 00 24, per chi vuole mettersi in linea con noi, i vostri sms 349 238 6666, poi naturalmente anche il tour, come avete sentito dal giornale radio di poco fa, Cancellara che si è ritirato. Oggi la tappa più dura del tour. Torniamo però a quella che è la notizia del giorno e ce la facciamo confermare da Marco Nosotti, inviato sul Milan per Sky, quindi da tanti anni conosce il Milan come e meglio di casa sua, vero Marco? Sì, buongiorno, anche perché a casa ci siamo poco con questo mestiere. Ciao Claudio, buongiorno a tutti. Ciao direttore, dunque la notizia è questa, perché a parte che Raiola sta diventando quasi un hostess ad onore, che sta, ovviamente non ne ha le capacità professionali e l'avvenenza, però ci sta, se gli va in porto questa operazione è veramente una grande operazione, l'ultimo grande contratto di Ibrahimovic. Ieri era a Stoccolma, hanno rintuzzato l'attacco dei colleghi svedesi che erano sotto casa nel luogo dell'incontro, e a quanto pare tutto era legato all'assenso da parte di Ibrahimovic. Vado a Parigi, vado nella Ligue 1 o no? A quanto pare Ibrahimovic, adesso aspettiamo soltanto che Mino Raiola arrivi a Parigi e confermi il tutto, in modo tale che vada in porto. Fosse una grandissima operazione. Grandissima operazione, Marco, dicevi un affare da 170 milioni, così dicono. Fra l'altro Galliani sono sull'arco dei 5 anni, ecco, nell'arco dei 5 anni naturalmente, perché Thiago Silva aveva un contratto fino al 2017 rinnovato recentemente, portato a soli 6 milioni, 7 e mezzo gli offrirebbe il Paris Saint-Germain, però è una grande spending review questo. Sì, per il Milan sicuramente, anche se il Milan leggo che si sta muovendo su destro, Tevez, Zecco, insomma non sarà solo un cedere, però certamente questo è un affare stratosferico fra Ibrahimovic e Thiago, insomma si rivoluziona un po' il Milan, Marco. Senz'altro, la rivoluzione viene completata, c'era la rivoluzione dei campioni del mondo, c'era la rivoluzione degli uomini che hanno vinto nel 2007 la Coppa della Champions League con Ancelotti, ma questa è una rivoluzione più profonda. Ibrahimovic, che è un signore che fa dei gol e ne fa tanti, e un anno sì, un anno pure si fa vincere lo scudetto, e l'anno scorso è stato un caso. Lui non c'è più Thiago Silva, che è il migliore, non ci sarà più il migliore centrale del mondo, che in campo aperto, quando si vede quanto vale un centrale difensivo, non è secondo a nessuno, anzi è il migliore di tutti. Ecco, non c'è più questa ossatura e quindi il Milan forse viene ridimensionato. Per il resto però può dar corso veramente finalmente, cioè alla fine di tutto, a un nuovo ciclo. Ci sono volti nuovi, ci sono un ringiovanimento e c'è quell'occhiata necessaria, quello sguardo necessario a ridimensionare gli ingaggi e a mettere a posto i bilanci, perché il nostro calcio non le può più sopportare. L'ultimo top player per qualità, grande giocatore per qualità e soprattutto per grande ingaggio, Ibrahimovic se ne va, perché questo campionato non lo può sopportare, non lo può supportare. Ed è una rivoluzione questa, sì, hai detto bene, la parola è giusta. Secondo me non è un passo indietro, detto sinceramente. Comunque è un... No, hai ragione, non è un passo indietro, è un passo forse non proprio in avanti, di fianco, se vogliamo, ma è un cambiamento a cui bisognava pensare, forse anche prima, per preparare il nostro caso. Marco, perché ci è colato molto sugli allori. Alcuni SMS che stanno cominciando ad arrivare, naturalmente sono in particolare per te. No, uno da Valerio D'Alece che dice: della serie Le promesse di Berlusconi. SMS che è arrivato al 349-238-6666. Per chi volesse, abbiamo qui Marco Nosotti, grande conoscitore di tutto quello che è l'ambiente Milan, inviato di Sky. è vero, però effettivamente ogni tanto anche Berlusconi magari si lascia andare a dichiarazioni che poi in qualche caso vengono smentite, però in questo caso devo dire, se le cifre sono quelle che vengono riferite, è veramente difficile riuscire a resistere, sì, a cifre del genere. Sono completamente d'accordo. Certo, le promesse ci sono, quelle promesse vere e proprie, cioè quelle promesse che fai per il cuore, ma sai già che non puoi mantenerle. Ci sono quelle promesse che fai perché è nel gioco delle parti. In parte, Basil Bisticci, questa è stata una promessa del gioco delle parti. Thiago Silva era tutto pronto, però non potevi disfartene così. Ibrahimovic si sarebbe risentito, si risente se Sharawi non gli dà la palla, e quindi sarebbe creata un'altra situazione difficile, indebolendo il Milan. In questa occasione Berlusconi dice: caro popolo rossonero, ho resistito alla prima tentazione, poi Carletto e Leonardo me ne hanno proposta un'altra, e a questa non si può rinunciare. No, hai ragione Marco, non si può rinunciare, e anche per il periodo. Io sinceramente, cifre del genere, che qui un altro SMS sempre al 349-238-6666 dice: l'uomo fra le nuvole, come George Clooney, riferendosi probabilmente a Raiola, ma in assoluto io credo che stanno solo sulle nuvole cifre di questo tipo, quindi, e in questo momento rifiutare cifre del genere non sarebbe probabilmente neanche giusto. Fra l'altro arrivano notizie di questo incontro di Galliani in via Turati con Claudio Vigorelli, agente di Mattia Destro, quindi in attesa proprio molto interessante. Sì, molto interessante. Perché noi abbiamo giustamente parlato di vecchi amori di Allegri, Dzeko, che è anche un vecchio amore di Galliani, che era andato sulle colline di Sarajevo a parlare con suo padre, a parlare con lui, ma era costoso allora, era abbastanza costoso anche adesso, pur non rientrando nei piani di Mancini. Destro è interessante perché intanto è un posto per un extracomunitario, allora potresti andare a prendere Kolarov, 10-12 milioni, ma a sinistra in questo momento il Milan ha Antonini e Di Dagbia. Kolarov può essere interessante, però Destro è un prospetto futuro, un giocatore che sa cos'è la Serie A, l'ha provata, è un giocatore che ha... Allora puoi dire: ok, mi metto in casa una squadra che riparte, che ha un faro come Ambrosini, che ricorda a tutti com'è che è l'aria che si respira a Milanello. Sono giovani, c'è un allenatore che ha un tipo di gioco, lo sposo fino in fondo, e comincio a prendere i giovani italiani che mi fanno la nuova storia del Milan. Sharawi, appunto, Destro stesso, questo Acerbi sta venendo su bene, poi si parla anche di Ogbon, si è parlato, perché sì, con Urbanito Cairo vanno abbastanza d'accordo, a quanto pare adesso è stato ceduto, doveva sì, essere ceduto a Mesba, ecco, quindi c'è per dire, può essere un nuovo corso, e forse ti puoi anche, e chiudo qui, concedere di non vincere subito. Addio al Milan per Ibrahimovic e per Thiago Silva. Questa è la notizia di oggi, una notizia che ormai sembra difficilmente possa essere smentita. 800240024 per mettersi in contatto con noi. Ci sono già alcune chiamate. 349-238-6666 per i vostri SMS. Noso, in porta vaci tu, dice Doriano da Modena, che probabilmente conosce anche il fatto che Marco Nosotti, inviato di Sky a Milanello, sia qui con noi, sia anche un ottimo portiere. Marco, ripeto, già diversi SMS che ti riguardano. Uno mi sembra interessante fra gli altri, lo sono tutti, ma questo dice: sarà l'anno della svolta di Pato, ora unico leader, Michela da Cantù. Guarda, a questo punto quello che era una grandissima operazione di mercato, che poteva avere una grande valenza in chiave scudetto, cioè Pato, infortunato, va alla corte di Ancelotti, che è stato il suo mentore in Italia, e tu prendi Tevez, vince lo scudetto, è una sintesi pacchiana giornalistica che mi serve, però per dire, Pato resta, 22 anni, sembra che l'abbiano rimesso a posto dall'ultimo viaggio negli Stati Uniti, la risposta l'avremo dalle Olimpiadi di Londra, a proposito su Sky, oltre 2000 ore di diretta, 13 canali dedicati alle Olimpiadi, chiusa la... Lo abbiamo ricordato e fra l'altro avviso per chi avesse voglia, sabato mentre è in spiaggia con noi ci sarà dalle 17 alle 18 a parlare anche di questo Ettore Messina, grande coach del basket europeo, che ha fatto un annetto anche negli Stati Uniti in una squadretta che si chiama Los Angeles Lakers, e sarà proprio uno dei commentatori di Sky per l'Olimpiade. Scusami, piccola digressione, ma mi sembrava giusto farlo notare. Ettore è veramente un grande, e non lo dico solo per piaggeria o per tornaconto personale. Dicevamo, Pato l'hai tenuto, Pato sembra pronto, vedremo quella medaglia d'oro alle Olimpiadi di Londra. Nel calcio è l'unica cosa che non ha vinto la nazionale brasiliana, sono tutti carichi come delle molle, soprattutto Pato e Thiago Silva. Allora, Pato a questo punto l'hai tenuto, ci scommetti sopra, è pronto, è un giocatore che vede come pochi la porta, ha bisogno di continuità. Se ti ritorna il Pato che abbiamo avuto modo di capire, di conoscere nei mesi, negli anni precedenti, beh, allora è importante, questo giocatore è un grande giocatore. Marco, ci arriva una segnalazione da un tassista milanese, Gino, dice stanno arrivando ultras e polizia in via Turati, ma naturalmente noi riceviamo questo sms, non sappiamo quanto ci sia di vero, di non vero, eccetera, un po' di maretta fra i tifosi magari ci potrà anche essere, però guarda, un altro sms già dice autarchia, basso profilo, guerriglia cargistica e sorpresa, quindi insomma c'è chi è d'accordo e chi magari lo è un po' meno. Obiettivamente io ho visto i ragazzi della Curva Sud che in un raduno, zona di raduno non certo dei più famosi, di quelli da ricordare come è stato quello di quest'anno, non erano così esigenti, non erano cattivi, non avevano nel senso cattiveria di pretendere, sì, ma certo, da parte della società. Hanno capito il momento dell'Italia, del sistema paese, hanno capito anche il momento del calcio italiano e del Milan in particolare. Ieri sera so che erano titubanti, stavano alla finestra, oggi ci sono già notizie più importanti, forse più definitive, e può spaventare, però io non lo definirei un ridimensionamento tu cura, ecco, cambiano degli interpreti, va bene, Ibrahimovic i primi 4 mesi dell'anno scorso ha fatto grandissime cose, ma Marco, lassù, però dopo... guarda, un altro tifoso, Max, ci scrive, purtroppo è un bene per il Milan, senza Ibra sarà più squadra, ci sono anche alcune motivazioni tecniche, poi chiaramente tecniche si può essere d'accordo o meno, naturalmente poi stiamo sempre parlando di sport e vorrei che si sorridesse mentre si parla di calcio, come sorrideremo fra poco, caro Marco Nosotti, quando parleremo con Beatrice Vio, Bebe per tutti, schermitrice amputata ai quattro arti, per la quale si è mossa anche l'Europa per farla andare a Londra a raccontare quella che sarà la splendida Paralimpiade, fra l'altro Paralimpiade che andrà in onda sulla Rai, ma andrà in onda anche su Sky, così dopo l'Olimpiade. Il binomio funziona. Ma volevo dire, stiamo parlando di sport e continuiamo a parlare di sport, ecco, quindi la polizia e le altre cose lasciamole da parte. Penso che faccia parte del gioco, dell'indignazione, abbiano paura anche che chissà che cosa, invece niente, Milan mette a posto i conti, dà un taglio forse con un certo tipo di esperienza e provvede a incamminarsi su un'altra strada, con un tecnico che, ripeto, forse troverà anche modo di avere nuovi stimoli, di fare ancora il suo calcio, che è un calcio comunque propositivo e interessante, che è in avanti, che gioca per andare a fare gol. Ecco, perché sostanzialmente questo è il calcio. Io credo che un problema sarà trovare il vero sostituto di Van Bommel, che nel calcio l'uomo davanti alla difesa, il regista davanti alla difesa per Allegri, è un giocatore importante. Van Bommel impersonava un giocatore di grande personalità, lettura dell'azione, ripartenza dell'azione, chiusura. Ambre e Montolivo sono per ora destinati a quel ruolo, così ci dice Allegri, ma lì forse qualcosa bisogna rivedere. Ti dico, è una rivoluzione, ma credo che, come dice il nostro amico da casa nel messaggio che ci ha mandato, abbiamo visto qualche volta senza Ibrahimovic la squadra fare bene, lo dicono le statistiche, 1.9 i punti, la media punti con senza Ibrahimovic e 2.1 con Ibrahimovic, non si scappa di lì, quindi almeno in alcune partite che ho preso in considerazione nella passata stagione, per cui la squadra gioca diversamente, deve dare qualcosa di più, c'è maggiore responsabilizzazione, forse meno pressione su alcuni giocatori e può sviluppare un altro tipo di gioco, deve cercare sì. altre soluzioni. Sì, poi ecco, qui è un altro sms al 349-238-6666, per le vostre chiamate invece 800-24-0024. Questa del Milan è stata una scelta logica e corretta, l'errore è vero, è stato quello dello scorso anno, il giocatore su cui rifondare era Pirlo, scrive Andrea da Perugia, un altro che dice forse si doveva vendere Pato l'anno scorso, naturalmente con i sei ma poi non si fa la storia, ecco. È vero che stai vendendo i tuoi due migliori giocatori, questo è indubbiamente, almeno quelli che sono indicati come due migliori giocatori, poi come abbiamo visto forse Ibrahimovic alcune volte quando va via la squadra comincia a vincere, vabbè, ma comunque questa è una piccola polemica mia personale. Ma c'è stato dei momenti in cui forse quando c'è un Ibrahimovic che è un essere umano grandissimo, io gli ho visto fare della roba da bordo campo a una velocità tale in cui pensa, decide, fa e sceglie con una tecnica sopraffina, con una grande velocità, ma gli ho visto anche passare dei momenti di difficoltà, dei momenti in cui si estraniava un po', e negli ultimi tempi gol su azione sono mancati, per dire. Se vogliamo trovare un po' il pelo nell'uovo. Sì, è difficile trovare il pelo nell'uovo con Ibrahimovic, cioè, sinceramente, però vabbè. L'importante è non dirglielo, ecco. Esatto, perché sì, assolutamente. Non ho mai visto un giocatore di calcio. Assolutamente. Così. Senti, due ascoltatori veloci per te prima sì. di lasciarti al tuo lavoro per Sky. Francesco da Pescara. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io volevo intervenire sul tema caldo della giornata, ovviamente. Secondo me, mi avviso, che ne diciate, è una sconfitta per il calcio italiano, l'ennesima sconfitta per il calcio italiano. Ci stiamo indebolendo da un punto di vista tecnico, sicuramente, perché parlo da juventino, non sono milanista, quindi dovrebbe essere a mio favore questo indebolimento sulla carta del Milan, perché comunque a livello europeo difficilmente si vince se non si hanno i campioni, lo vediamo nella storia del calcio, se è andato Kakà, se è andato Pastore, Balotelli, sì. Lavezzi, adesso Ibrahimovic, abbiamo difficoltà, parlo anche realisticamente per la Juve, ad acquisire il top player, perché in questo momento non ha appeal il calcio italiano, quindi questo famoso top player, è difficile che un giocatore come Van Persie o altri possano venire a giocare in Italia, e difficilmente in Europa torneremo a essere, diciamo, vincenti a questo punto. Grazie Francesco, si è espresso perfettamente, ha anche ragione, due soli piccoli appunti, con Ibrahimovic e anche nelle varie squadre dove è andato Ibrahimovic, poi alla fine in Europa non si è mai vinto moltissimo, non che il Milan non abbia comunque dei top player, perché se Pato sta bene, e naturalmente quel se è essenziale, se Pato sta bene è sicuramente uno dei top player. Velocissimo, un altro ascoltatore prima di fermarsi per la borsa, Mario. Sì, buongiorno Rigoni. Io guardi, sono tifoso milanista, me ne sto facendo piano piano una ragione, però non è, penso, una scelta, è una necessità, una costrizione. Il Milan è una società gestita da una proprietà che ha dei problemi economici, tra virgolette, i 500 erotti milioni di euro che la Fininvest deve a quello che tutti sappiamo condizioneranno per anni il nostro mercato, e quindi ci stanno relegando a una squadra che non può puntare né a vincere in Italia né a vincere in Europa. Il passato è stato glorioso, però il presente è questo, lo dico con rassegnazione, con amarezza, ma con rassegnazione. Comprendiamo Mario, io su questo aspetterei, perché tante squadre hanno venduto dei grandi campioni e poi hanno iniziato dei cicli. Marco, se vuoi una piccola chiosa, hai 10 secondi, ma per dirci hanno detto tutto.

170 milioni di euro, e qui c'è poco commentare. Andiamo anche sulle altre squadre, vogliamo farvi risentire quello che ha detto ieri Andrea Agnelli sul numero degli scudetti, perché ha fatto molto parlare. Il trentesimo scudetto nell'immaginario collettivo comporta l'idea delle tre stelle. Tre stelle che sono all'ingresso di questo stadio, sono assolutamente ben visibili, e noi tutti juventini, quindi gli juventini veri, si sentono veramente questi 30 scudetti che sono stati vinti sul campo. Noi contiamo gli scudetti, mettiamo uno più uno più uno più uno più uno più uno in fila e ci viene 30. Quando però guardo quello che è l'aritmetica della federazione, fanno uno più uno più uno più uno, ne saltano due più uno e fa 28. E quindi qui evidentemente non ci troviamo molto d'accordo. Quello che è stato il ragionamento che noi abbiamo fatto, cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso le due stelle, che sono quelle che rappresentavano i 29 scudetti fino a ieri, quindi la stella ne rappresenta 10, noi non riconosciamo più il modo che ha di contare, cioè l'aritmetica della federazione, e abbiamo deciso di togliere le stelle dalla maglia, perché non riconosciamo più il modo che ha di calcolare la federazione. Due aritmetiche diverse dunque fra Juventus e federazione. Vabbè, andiamo a sentire anche neoacquisto dell'Inter, Handanovic, che si dice pronto per vincere subito. Si può lottare per vincere, questo era un obiettivo. Adesso sono qua e ho tutto a disposizione. Io rispetto e stimo tanto Giulio come portiere, per me è grande portiere, però io con questa storia non c'entro niente. E poi anche quando arrivava lui all'Inter c'era, mi sa, Toldo, prima di Toldo c'era Fontana, Peruzzi, Pagliuca, c'erano tanti grandi portieri e ci sono sempre stati. Io solo quello che vi posso dire è che impegno e comportamenti e professionalità non ci mancherà. Era Handanovic, neoacquisto dell'Inter, che spera naturalmente di non far rimpiangere Giulio Cesar. Però andiamo a voltiamo un attimo ancora pagina, perché oggi c'è quella che è definita un po' la tappa più dura del tour. È vero, Pier Augusto Stagi, il nostro inviato al Tour de France? Buon pomeriggio, Pier Augusto. Sì, assolutamente una delle tappe più dure di questo Tour de France. I corridori hanno appena raggiunto il Gran Premio della Montagna, il primo che hanno affrontato. Cioè, intanto è una fuga con due corridori, sono Peter Bailitz, andato all'attacco con Kessiakoff, e all'inseguimento, staccati di una quarantina di secondi, 21 corridori, con dentro Michele Scarponi e Ivan Bassa, che si sono portati avanti. Io stanno cercando di animare la corsa il più possibile. Hanno appena superato, stavo dicendo, il Col della Madeleine, adesso sono lungo la discesa, tra poco un tratto di pianura di una quindicina di chilometri prima di cominciare nuovamente un'altra salita che i francesi definiscono hors categorie, oltre la categoria fuori categoria, che è la Croce di Ferro. Dopodiché ce ne saranno altre due, il Mollard e l'arrivo alla Tossuera, che sono invece di prima categoria, un arrivo in salita, una tappa breve di 150 chilometri con quattro montagne. Breve ma intensa, Pier Augusto. Assolutamente, sì. Dove veramente su quelle tappe che ti lasciano senza respiro, e la stanno facendo veramente senza respiro. Sono partiti praticamente in salita e subito sono nate le fughe. Molto molto attivo, molto combattivo Michele Scarponi, anche Ivan Basso si è mosso proprio nei primi chilometri, e sono andati via questi 25 corridori. Adesso si stanno un po' così, stanno un po' lottando su in discesa, soprattutto Ivan, che non è molto avvezzo alla discesa, un po' fifone, per usare un termine così. Senti Pier, queste quattro salite di questa tappa potranno modificare qualcosa secondo te? Io credo di sì, qualcosa succederà oggi, perché se questa sera la classifica sarà immutata, se Evans o Nibali non avranno guadagnato qualcosa su Bradley Wiggins, sarà veramente dura. Credo che dopo, è vero, ci sono ancora due tappe molto selettive la prossima settimana sui Pirenei, però oggi cominciamo a vedere se questo britannico può essere attaccato. Lui è uno che si difende bene in salita, è fortissimo, è sicuramente un fuoriclasse nelle prove a cronometro, però oggi deve essere aggredito, quindi ci deve essere un segnale forte. Io penso che oggi il segnale possa arrivare, sono fiducioso per il bene del Tour che deve salire di quota e per il bene anche del ciclismo italiano che sta lottando con Vincenzo Nibali per un sogno giallo che non è così folle, perché comunque Vincenzo è lì, non è staccatissimo, è in corsa, quarto in classifica e ha ancora del terreno per poter così modificare in suo favore la situazione. Benissimo, ce lo racconterai naturalmente nei radiogiornali. Allora, forza Vincenzo, grazie Piero Augusto, buon tour. Grazie a te. E ci fermiamo, naturalmente a Tempo di Sport torna domani dalle 14 per la chiusura della settimana, ma poi avremo sabato e domenica dalle 5 alle 6, quindi non vi lasceremo mai soli con lo sport. Grazie a Laura Vanossi in redazione, a Matteo Comes in regia. A Tempo di Sport torna domani.